e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cara la mia, buongiorno. Buongiorno a te. Eccoci qua ritrovate. Allora, quali sono? È già martedì, dai. È ormai in discesa. È cominciata la discesa. Allora, proprio ieri, ritoccando ancora una volta il tema mutui, naturalmente abbiamo avuto di nuovo l'occasione di parlare di famiglie, sempre molte, purtroppo troppe per noi, che possono trovarsi in una situazione di difficoltà a causa della perdita del posto di lavoro. Perché? Perché viviamo una condizione del mercato del lavoro che in Italia tenta di ripartire. Queste prove di ripartenza le possiamo notare anche dalle statistiche relative all'attività dell'INPS, che eroga i trattamenti di disoccupazione. Allora, quali sono le notizie? Ieri abbiamo appreso che a gennaio di quest'anno, rispetto al gennaio dell'anno scorso, c'è stato un vero e proprio crollo delle domande di indennità di disoccupazione. Oggi si chiamano ASPI, NASPI e mini ASPI. Queste sono le nuove sintesi dei trattamenti, appunto, di disoccupazione. A gennaio ne sono state erogate circa 148.000, meno 32% rispetto all'anno precedente. Già a dicembre eravamo scesi sotto le 150.000 erogazioni. Allora, cifre a parte, ci sembrava utile ritornare allora a spiegare il funzionamento di questi trattamenti, fare un riepilogo delle novità che sono state introdotte contestualmente al Jobs Act. Ce ne occuperemo nella prima parte della trasmissione, rispondendo anche alle vostre domande all'800 24 00 24. E a proposito di novità, l'AIFA ha dato il via libera, dopo la pillola dei 5 giorni, anche a quella del giorno dopo, che potrà essere venduta senza ricette in farmacia ai maggiorenni. Allora, oggi facciamo il punto sulla contraccezione d'emergenza e sui metodi contraccettivi attualmente disponibili. Per tutti i vostri dubbi, le vostre domande, il nostro numero verde è a disposizione. Questa non è una valutazione della sua produttività, non la prenda su un piano personale. Su un piano personale? Steven, sa, chiunque abbia costruito un impero, cambiato il mondo, è stato seduto lì dove è lei adesso. È proprio perché era seduto lì che è riuscito a farlo. È la verità. Bene, ecco, ora si prenda la giornata, raduni tutte le sue cose e poi domani si dedichi allo sport. Vada a fare una bella corsetta, stabilisca delle sane abitudini e presto ritroverà un equilibrio. E allora, questo era un brano tratto dal film Tra le nuvole, film del 2009 interpretato da George Clooney, che porta sullo schermo la figura di un cinico manager, Ryan Bingham, definito un tagliatore di teste aziendale. Avete sentito il modo in cui estromette, appunto, da un'azienda un professionista. Un rapporto lavorativo può concludersi in varie maniere, la comunicazione può avvenire con più o meno tatto, ma cosa succede dal giorno dopo? Chiaramente noi non parliamo della realtà americana, ma di quella italiana. Parliamo del periodo della disoccupazione, che ci auguriamo sia sempre molto breve, lo auspichiamo naturalmente per chi ci ascolta e si trova in questa situazione, del tema che affrontiamo stamattina a Cuore e Denari. Allora, più o meno facile rispetto al passato accedere ad un trattamento di indennità di disoccupazione? Come chiedere, da chi dobbiamo andare, che tempi intercorrono fra l'ultimo stipendio e il primo assegno di disoccupazione? Perché molto spesso il problema è proprio qua. Ne parliamo stamattina a Cuore e Denari. Lo spunto ci arriva da un dato significativo che potete leggere stamattina su tutti i giornali. A gennaio di quest'anno, rispetto al gennaio dell'anno scorso, c'è stato un vero e proprio crollo delle domande di indennità di disoccupazione. Ma c'è anche qualche giornale, come fa il Sole 24 Ore, che comunque guarda anche al fenomeno contestuale di aumento invece della cassa integrazione straordinaria. Abbiamo delle grandi aziende che si stanno ristrutturando e che naturalmente continuano a chiedere alle regioni di implementare il numero delle ore, appunto, di cassa di integrazione per i propri lavoratori. Insomma, di tutto questo che stamattina parliamo con il nostro giuslavorista ed esperto per il Sole 24 Ore, l'avvocato Giampiero Falasca, che salutiamo. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, 800 24 00 24, il numero verde destinato ai nostri ascoltatori, se lo volete comporre per commentare con noi questo argomento, soprattutto se magari siete proprio in questo momento in procinto di formulare all'INPS una domanda per chiedere l'indennità di disoccupazione. Come si fa? Oggi la procedura è completamente telematica, ma magari qualche volta far da soli siamo un po' in difficoltà, e prima di andare ad una figura che ci aiuti, che potrebbe essere l'INPS stesso oppure un patronato chiamato un CAF, vediamo se possiamo aiutarvi noi questa mattina. Ma, avvocato Falasca, volevo cominciare subito con lei con un commento sul dato relativo alle domande di disoccupazione di gennaio: 148.185, meno 32,3% su base annuale. Si enfatizza molto questo dato sul crollo, noi come lo dobbiamo leggere? Significativo a suo parere? Ci sta anticipando qualcosa di più interessante, di un trend strutturale che potrebbe significare anche una buona ripartenza del mercato del lavoro, oppure tutto sommato in gennaio un dato da considerarsi fisiologico? Ma guardi, io lo considero per quello che è, cioè è un dato sicuramente positivo, ma diciamo sono ormai anni che stiamo cercando dei trend che poi non troviamo. La verità è che in questi anni siamo sulle montagne russe della crisi e potremmo riconoscere un trend quando questi dati diciamo saranno in una serie molto più significativa. Il fatto che a dicembre siano già scese sotto le 150.000 le erogazioni non è anche un inizio sì, di trend? È un piccolo segnale positivo, però diciamo, l'esperienza di questi anni mi dice che ci vorrebbero diciamo almeno 10-12 mesi consecutivi in una certa direzione per dire che abbiamo preso un certo trend oppure. Purtroppo c'è una fortissima variabilità in questi anni di mese in mese delle situazioni. Comunque diciamo in questo quadro di assoluta incertezza, variabilità e quant'altro è assolutamente positivo il fatto che calino le indennità di disoccupazione. Ha ragione l'ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666, avvocato Falasca, che questo crollo delle domande di indennità di disoccupazione dipende anche dal fatto che molte persone hanno perso il diritto al trattamento e non stanno trovando un nuovo lavoro, ma hanno appunto raggiunto il limite massimo di utilizzo di questo strumento, questo ammortizzatore sociale. Non credo, perché comunque sostanzialmente le condizioni tra pre-jobs act e dopo post-jobs act sono le stesse, quindi è abbastanza comparabile la situazione su prima o dopo, onestamente non ce lo vedo questo. Diciamo il dato dello scorso anno già teneva conto che del fatto che a un certo punto il trattamento finisce, quindi è comunque un fatto in sé positivo. Come relazioniamo invece il dato sul crollo delle indennità di disoccupazione con l'aumento vistosissimo della richiesta di cassa integrazione straordinaria da parte di molte imprese nei primi due mesi dell'anno? Anche questo è stato il dato contenuto nello stesso osservatorio appunto sulle prestazioni sociali che è stato diffuso ieri dall'INPS. Ecco, e qui diciamo qui c'è la conferma del fatto che è ancora presto per prendere per vedere un segnale positivo. La cassa integrazione è una misura che interviene prima del licenziamento e quindi serve ad evitare proprio il licenziamento. E qui il fatto che riducano le NASPI, ma ci sia un aumento dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale in costanza di rapporto fa pensare insomma che qualche problema ancora c'è. Segnalo solo una cosa però, pochi l'hanno detto, ma secondo me è rilevante. È vero che la cassa straordinaria è stata... Avvocato, si può avvicinare un po' meglio alla cornetta del telefono perché la sentiamo con un po' di difficoltà, grazie. Scusatemi, ecco, adesso spero mi sentiate meglio. Molto meglio, grazie. Dicevo, è vero che la cassa integrazione guadagni straordinaria è aumentata moltissimo nell'utilizzo, ma è anche vero che le causali di utilizzo dopo il Jobs Act sono più ampie, anche il contratto di solidarietà oggi si chiama cassa integrazione straordinaria, quindi insomma non credo in questo caso che il dato sia facilmente comparabile. Però ecco, diciamo, per dire qualche problema c'è, altrimenti non ci sarebbe questo utilizzo infatti, così forte. Ma soprattutto poi altrimenti non sarebbe così preso di mira il governo tutte le volte che segnalando il numero di nuovi occupati in più rispetto allo scorso anno enfatizzano così tanto questo dato ma lo massacrano in ogni modo, esatto. Proprio perché è evidente che i problemi continuano a sussistere. Intanto Carmen ci segnala che ha un marito andato in tilt per aver perso il lavoro di insegnante, è un over 50, non sa come fare per toglierlo dal suo stato di paralisi. Carmen, qua il tema riguarda anche appunto gli over 50. sì, che abbiamo affrontato anche altre volte, tante volte, e magari ci ritorneremo, Carmen. Per adesso commentiamo stamattina un altro argomento che pure un altro ascoltatore contesta nella modalità in cui l'abbiamo commentato fino a questo momento: il dato statistico non vuol dire che è ripartito il mercato del lavoro, che è esattamente quello che abbiamo detto questa mattina. Intanto 800 24 00 24, avvocato Farasca. Qua ci vuole andando... il dottor Burdo. Esatto, per i problemi di udito naturalmente scherziamo, per l'ascoltatore forse ha perso questo passaggio. Detto questo, avvocato Farasca, allora adesso faremo l'ABC di tutti i trattamenti di indennità che conosciamo, che sono stati introdotti di recente, ASPI, NASPI, mini ASPI, qua ci siamo veramente divertiti con gli acronimi. Detto questo, se lei dovesse farci una fotografia della ultima riorganizzazione del Jobs Act, che ha appunto rimodulato le varie forme di indennità di disoccupazione, secondo lei quali sono le novità portanti e più rilevanti di questa riorganizzazione? Sì, allora diciamo che è corretto il termine utilizzato, non sono stati stravolti gli istituti, ma sono stati riorganizzati. Allora diciamo che quando parliamo di questi trattamenti ci sono due gambe. Avvocato, facciamo una cosa, devo dare il traffico, siccome non la sentiamo ancora bene, io ne approfitto di questo minuto di tempo per consentire a Marco Lombardo, il nostro assistente, di ripescare la telefonata con lei, quindi guardi proprio il tempo per ascoltare quello che succede sulle strade, italiane, così poi le faccio fare la domanda e i nostri ascoltatori la possono ascoltare per bene. Tra poco. Cuore e denari. Non posso permettermi di stare senza lavoro. Ho un mutuo sulla casa, ho dei figli. Come faccio da uomo a tornare a casa da mia moglie e spiegarle che ho perso il lavoro? A livello di stress, ho sentito dire che perdere il lavoro è come una morte in famiglia. Ed è per questo che tra un lavoro ed un altro, naturalmente a patto che lo si riesca a trovare in tempi abbastanza brevi, ragionevolmente brevi, esistono gli ammortizzatori sociali proprio per consentirci questo passaggio in maniera più o meno morbida. Allora oggi stiamo commentando con l'avvocato Giampiero Falasca il dato sul crollo in gennaio delle indennità di disoccupazione erogate dall'INPS e stiamo cercando di capire e ricordare soprattutto nell'ultimo anno come è stato riorganizzato il sistema delle indennità di disoccupazione grazie al Jobs Act. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, sono già pronti. Mariuccia dalla provincia di Monza e Brianza, Maurizio dalla provincia di Pordenone, ma intanto avevo brutalmente interrotto l'avvocato Falasca che ci raccontava le novità portanti del Jobs Act in termini di ammortizzatori sociali. Avvocato. Sì, spero che adesso si senta meglio. Molto meglio, allora, molto meglio, sì. Bene, bene. Allora, sarò fotografico, proprio rapidissimo. Diciamo, per quanto riguarda i trattamenti che spettano a chi è stato licenziato, quindi la NASPI, il Jobs Act ha appunto cambiato il nome, perché prima si chiamavano ASPI e mini ASPI, ha cancellato questi strumenti che sostanzialmente restano in vita solo per chi ha perso il lavoro fino al 30 aprile 2015. Anno. Mm-hmm. Esatto, dal primo di maggio esiste solo la NASPI che ha assorbito entrambi. NASPI perché c'è la N davanti, che è la nuova ASPI, esatto. Sì. Non mi sembra una scelta molto lungimirante, perché esatto, tra 5 anni ancora la chiameremo nuova. Nuova nuovissima, NN ASPI. Esatto, vabbè, esatto. Però diciamo, ecco, la vera novità del Jobs Act su questo trattamento è che è modulato in funzione della storia di ciascuno di noi, cioè la durata non è più legata a dove risiedo, oppure a quale categoria di età appartengo, ma la durata è la metà di quanto ho lavorato negli ultimi 4 anni. Quindi se negli ultimi 4 anni ho lavorato per 2 anni, io avrò un trattamento di disoccupazione che dura al massimo per 1 anno, la metà di questo periodo. Altro, diciamo, piccole novità riguardano i requisiti: bisogna avere 90 giorni di contributi, diciamo 13 settimane di contributi versati e 30 giorni di lavoro effettivo. Questo in sintesi il requisito della NASPI. Adesso ci ritorneremo, le faccio sentire subito allora Mariuccia dalla provincia di Monza e Brianza, che credo che abbia un figlio che si trova in una situazione di questo tipo, credo che abbia fatto richiesta appunto dell'indennità di disoccupazione. Sentiamo Mariuccia perché chiede il nostro aiuto stamattina, benvenuta. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Allora, mia figlia l'anno scorso, a giugno, metà giugno, ha perso il lavoro, è stata licenziata. La settimana dopo ha fatto un contratto di 6 mesi sostituzione maternità come tirocinante. Nessuno le ha detto che avrebbe dovuto comunque richiedere la disoccupazione. Quando a dicembre ha terminato questi 6 mesi, giustamente è andata a fare la richiesta, però sia a livello di centro di lavoro che un CAF gli hanno detto che non le spetta, in quanto il tirocinio non è considerato come contratto di lavoro. E quindi, Mariuccia, quando ha perso il lavoro a giugno, per quanto tempo nei 4 anni precedenti aveva lavorato, aveva mantenuto questo rapporto di lavoro? Per tutti... Allora, 2 anni prima era stata licenziata, però riassunta subito. In pratica sono 9 anni che lei lavora, non continuamente, ma ha sempre lavorato. Mm. Avvocato Falasca, allora, il tirocinio perché impedisce alla figlia di Mariuccia di percepire l'indennità di disoccupazione? È corretta l'interpretazione che le ha dato il consulente allora, al quale si è rivolta? Penso che qui il problema sia legato ai 30 giorni di lavoro effettivo che devono essere stati fatti nei 12 mesi che precedono la domanda. Mm. Penso sia questo. E il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato. Purtroppo viene usato spesso per mascherare lavoro subordinato, perché già la dicitura dà l'idea della fraudolenza, un tirocinio per una sostituzione in maternità, e le sostituzioni in maternità si fanno col contratto a termine. Purtroppo la ragazza è stata utilizzata con un contratto irregolare e ne paga ulteriormente le conseguenze. Questa è la prova di quanti danni fanno i contratti. Quindi questa giovane non ha diritto a nessun tipo di ammortizzatore sociale in attesa di trovare un altro posto di lavoro, a suo avviso? Adesso diciamo dovrei vedere la condizione generale, ma diciamo, così, a spanne. Per quello che sappiamo a spanne no. Diciamo, dovrebbe chiedere la riqualificazione del rapporto che è intercorso, a quel punto poi ne avrebbe anche... Mariuccia, magari se ha tempo ci scriva qualche dettaglio in più rispetto al caso di sua figlia, cuoredenari@radio24.it. Per tutti gli altri il numero verde a disposizione stamattina 800 24 00 24. Allora parlavamo della ASPI, che adesso si chiama NASPI, ma è la vecchia appunto indennità di disoccupazione, una prestazione economica che naturalmente è erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione. Perché è importante, avvocato Falasca, soffermarsi sul requisito della perdita involontaria del posto di lavoro? Questo è importante, giusto, perché se ci si dimette o se si risolve consensualmente il rapporto, salvo il caso che questo accada nell'ambito della cosiddetta procedura Fornero, cioè nell'ambito di una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, però ad eccezione di quel caso, se il lavoratore si dimette o accetta consensualmente di uscire, non matura il diritto alla NASPI, perché il ragionamento di fondo è che ha scelto lui o comunque ha concorso lui alla situazione di disoccupazione. Quindi è importante fare attenzione quando si chiude il rapporto alle forme che si utilizzano. Tra l'altro poi se le dimissioni sono per giusta causa invece comunque spetta la NASPI, perché in quel caso sono stato costretto a dimettermi e quindi non posso essere penalizzato. Allora, a tal proposito sentiamo proprio Maurizio da Pordenone, a cui faccio fare la domanda, poi ci riflettiamo durante il giornale radio e gli rispondiamo alla ripresa di Cuore Denari. Maurizio, benvenuto. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Senta, allora io sono 11 anni circa che lavoro per un'azienda del quale sono unico dipendente. Sì. Nel 2013 hanno saltato 7 mensilità di stipendio, poi che avanza ancora naturalmente, poi si sono messi un po', si sono regolarizzati, però adesso hanno ricominciato con la stessa storia. Mm. Maurizio, ne avanzo già 2. Ma lei ancora lavora, quindi è stato perso il lavoro o meno? Io ancora lavoro. Allora Maurizio, guardi, devo andare al giornale radio, pensavo potesse essere più sintetico, la riprendiamo dopo il GR. Cuore e denari. Oggi non lavoro, allora sai, non resterò da solo come tu sei. Allora, l'importante è non restare senza uno stipendio, chiaramente, ma qualche volta quando si perde il posto di lavoro più che lo stipendio è necessario andare a fare richiesta di un ammortizzatore sociale che ci sostenga economicamente parlando fino a quando non troviamo un nuovo impiego. Allora, ieri abbiamo avuto questo dato sul crollo delle indennità di disoccupazione e le richieste di gennaio di quest'anno, meno 32% rispetto all'anno precedente. Stiamo cercando di capire se si tratta di un dato buono, soprattutto se sia l'inizio di un trend strutturale. Ancora non si può dire così. Detto questo, abbiamo colto l'occasione per fare un punto sulla rimodulazione dell'indennità di disoccupazione introdotta dal Jobs Act dello scorso anno. C'è la NASPI adesso, che è praticamente la nuova ASPI, che era il trattamento di disoccupazione che conoscevamo prima. La NASPI è entrata in vigore dal maggio dell'anno scorso. Come si fa a chiederla? E soprattutto perché... quello che adesso ci interessa capire, anche sollecitati da un ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, un ascoltatore, Bruno, che ci ha scritto una mail a cuoredenari@radio24.it, perché è necessario, ci chiede, aspettare tanto tra la richiesta e l'erogazione chiaramente della prima indennità. Ma questo succede anche per chi va in cassa integrazione e per tutti gli altri ammortizzatori sociali, purtroppo. Avvocato Falasca, poi faremo un punto su questo, sulla questione dei tempi, ma intanto dovevamo completare la domanda di Maurizio da Pordenone. Maurizio, benvenuto. Allora, lei ci raccontava che in realtà ancora lavora. Maurizio, tutto a posto? Io devo fare una puntata sulla tosse, perché questo periodo tutti li sentiamo tossire. L'avvocato Falasca ha tossito 2 o 3 volte. Esatto. Adesso Maurizio tra un po' si soffoca. Posso aggiungere anche, completiamo il quadro, che l'avvocato Falasca questa mattina mi ha dato una mano, perché l'altro ospite che avevo chiamato si è sentito male questa mattina, e lo salutiamo, Alessandro Rottaporta. Sì. Siccome loro sono amici, caro, mi aiutano, sono interscambiabili. E avvocato, anche un grazie all'avvocato Falasca. Esatto, infatti. Allora, Maurizio, ce la facciamo a completare la domanda? Lei non è ancora disoccupato, però la pagano, come si dice dalle mie parti, a pezzi e bocconi, quando, esatto, quando si ricordano, ecco. Per cui che, esatto, cosa voleva sapere in ragione, allora, del tema che siamo attaccati? Le richieste erano 2. Allora, se io dovessi porre il mio datore di lavoro davanti all'out-out, io mi fermo finché non mi pagate tutto quello che avanzo. Loro naturalmente saranno costretti a licenziarmi. In questo caso ho diritto all'ASPI. Seconda domanda, so che ci sono le dimissioni per giusta causa. Se il datore di lavoro non ti versa lo stipendio per 3 mesi consecutivi, tu puoi dare le dimissioni per giusta causa e accedere comunque a questa NASPI. Sì, è corretto. Però, o meno? Sì. Se ad esempio io avanzo gennaio, febbraio, marzo e ad aprile mi dimetto, se loro nel frattempo mi pagano, che ne so, marzo... E certo, come dire, vanificano la causa. Maurizio, abbiamo capito perfettamente. Volevi anche sentire altri ascoltatori, per cui vado dritta all'avvocato Falasca. Allora, se intanto lui ha tutte le ragioni naturalmente dell'indispettirsi nei confronti dell'azienda che non lo paga con regolarità, avvocato. E quindi se dice volessi dimettermi, perché chiaramente questa situazione per me non è più sostenibile, perdo il diritto poi a fare richiesta dell'indennità di disoccupazione, da quella che abbiamo detto prima, mi pare di sì, però potrebbe esserci... In questo caso lui lo manterrebbe il diritto, perché ci sarebbe la giusta causa. Ottimo. Cioè, se mi dimetto per giusta causa, sono stato costretto a dimettermi, allora lo mantengo. Attenzione che nel primo caso lui dice, se io invece, siccome non mi pagano, metto di lavorare e vengo licenziato, in quel caso forse sarebbe giusto il licenziamento, ma lui comunque avrebbe diritto. Cioè lui non può smettere di lavorare dicendo, come non mi paghi io non lavoro, rischia il licenziamento, ma poi la NASPI la prende, perché ormai la NASPI mette in tutti i casi il licenziamento. Adesso ho provato a sintetizzare al massimo, sostanzialmente lui non deve smettere di lavorare, se ritiene di non sostenere più questa situazione, si dimette per giusta causa e ha diritto. Ma se nel frattempo poi l'azienda, magari lui si dimette, nel frattempo l'azienda regolarizza la sua posizione, gli fa perdere anche il diritto all'indennità, perché... Deve, quando si dimette deve essere certo che ci siano almeno 3 mesi di mancati versamenti. Tra l'altro una piccola chiosa, dimettersi oggi non è più una cosa facilissima, perché da sabato scorso è entrata in vigore una procedura iperburocratica di cui nessuno sentiva il bisogno, ma è sostanzialmente, per dimettersi bisogna chiedere un PIN all'INPS e fare un modulo sul sito del Ministero del Lavoro, quindi ormai non ci si mette più dicendo io me ne vado, arrivederci e grazie, ma ci vuole insomma qualche giorno di tempo. Adesso apro e chiudo la parentesi. Ho fatto bene a ricordarci, perché anche se ci sono i presupposti ci rifacciamo anche un'altra trasmissione. Allora, è più facile lasciare il marito o la moglie che il lavoro. Senta, avvocato Falasca, allora, indennità di disoccupazione e cassa integrazione, lo sappiamo bene che quando si entra in una situazione di questo tipo, prima di percepire il primo assegno di ammortizzatore sociale rispetto all'ultimo stipendio, possono intercorrere anche molti mesi. Per l'indennità di disoccupazione, che tempi ci sono appunto rispetto all'ultimo stipendio, quando si viene licenziati o quando il rapporto di lavoro involontariamente si interrompe? Ma guardi, a quanto mi risulta, le NASPI, le indennità di disoccupazione, vengono pagate con una certa rapidità, insomma, non credo che si vada oltre il mese. Sono molto più lunghe le liquidazioni degli ammortizzatori sociali in costanza, le casse integrazioni guadagni ordinari e straordinari. Bruno ci spiega che invece sta aspettando ancora 4 mesi per prendere la NASPI e poi dice dura troppo poco per chi ha famiglia. Naturalmente, se ci sono delle condizioni che non permettono di rientrare immediatamente nel mercato del lavoro, è evidente. Quanto dura in genere la NASPI, l'indennità di disoccupazione? Qual è la durata? Diciamo da 0 a 2 anni. Dipende da quanto ho lavorato. A quanto lavorato, esatto. Più mi dura. 4 anni, il massimo 2 anni, esatto. Infatti, esatto, voglio dire una cosa però. Tutto questo che stiamo dicendo sono trattamenti lenitivi che durano per definizione poco. Qui la vera scommessa, la vera gamba da costruire sono le politiche attive. Cioè far sì che questi trattamenti aiutino per un certo periodo a prepararsi per rientrare al lavoro, a fare formazione, a fare attività per la ricollocazione. Perché tanto sarà sempre poco. Cioè, anche 3 anni di trattamento potrebbero essere pochi, perché se la persona non lavora essa stessa e il sistema non aiuta a lavorare sulla sua occupabilità, sulla sua capacità di entrare al lavoro, non ce la faremo mai. E va. Tra l'altro la ringrazio per questa precisazione, avvocato Falasca, perché noi siamo così in attesa di avere la disponibilità per essere intervistato a Cuore Denari da parte del nuovo responsabile dell'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il professor Del Conte, che è straimpegnato e però si è dato appunto disponibile per noi, quindi non appena troviamo l'occasione cerchiamo di capire un po' dove sta andando il nostro paese proprio in termini di politiche attive. Quindi quelle di cui stiamo parlando questa mattina sono le politiche passive, tutti gli strumenti, appunto tutti gli ammortizzatori sociali sono quelli che danno sostegno ai lavoratori quando rimangono senza lavoro, ma naturalmente affinché possano reimmettersi nel circuito abbastanza rapidamente, per cui non appena appunto lo avremo sicuramente avremo modo di fargli tante domande. Detto questo, ancora velocemente una domanda di un ascoltatore per poi passare al secondo argomento. Carmelinda dalla provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Eccoci. Ecco, sarò brevissima. Grazie. Volevo sapere, mia figlia ha percepito la NASPI e dovrebbe percepirla fino a febbraio del 2017. Però in questo periodo gli hanno proposto un lavoro, cosa però a partita IVA. Lei, aprendo la partita IVA, ha 30 giorni per dare comunicazione, però potrebbe chiedere la liquidazione della NASPI fino al 2017. Volevo sapere quali sono corretto. Le documentazioni da effettuare, se è una cosa vera o meno, insomma, perché l'abbiamo vista su internet. Ecco. Grazie Carmelinda. Avvocato Falasca, allora intanto l'apertura della partita IVA, siamo sicuri che non faccia perdere il diritto al percepimento del trattamento di disoccupazione? No, la semplice apertura non lo fa perdere, però diciamo ha citato una signora un istituto vero, cioè c'è la possibilità di farsi liquidare tutto il trattamento se si vuole a avviare un'attività di lavoro autonomo. Ora sulla documentazione mi permetto di rinviare. No, esatto, anche noi siamo esatto. È completissimo, è molto ben fatto, ma sicuramente. E poi c'è un tema più generale in cui tanti a volte si lamentano, ma ha senso. Ovviamente se si superano con la partita IVA o con il lavoro subordinato determinati scaglioni di reddito, poi si perde il diritto comunque. Però ecco, il tema era capire se si ritrova un'altra opportunità di lavoro, anche se si tratta dell'apertura di una partita IVA, l'importante è che non ci faccia perdere appunto questo trattamento. Addirittura c'è la liquidazione per l'anno che poi non viene percepito regolarmente mensilmente. Luigi della provincia di Foggia chiedeva, ha avuto un contratto di collaborazione per 3 mesi, avvocato Falasca, può richiedere la disoccupazione o è un po' pochino come requisito, un po' piccolo? No, perché come collaborazione non va a requisito della NASPI, c'è il trattamento, il cosiddetto discoll, che è un trattamento temporaneo, adesso dovrei vedere il caso specifico per vedere se ci rientra, ma come NASPI sicuramente non ci rientra. Benissimo, avvocato Falasca, abbiamo fatto un punto molto interessante della situazione questa mattina, ancora 5 secondi di tempo, c'è ancora qualche messaggio che vuole rilasciarci prima di salutarci sul tema di oggi? Ma no, questo che dicevo, siamo in mezzo ai mari, diciamo, cercare in continuazione segnali è giusto, ma non è facile, quindi io inviterei tutti a una grandissima cautela. I trionfalismi di casa Sofismi sono assolutamente fuori luogo, e la trasmissione questa mattina aiuta a non cadere, diciamo, né nell'una né nell'altro, certo, eccesso. Grazie all'avvocato Gianpiero Falasca per essere stato con noi, giuslavorista, esperto per il Sole 24 Ore di tutta la complessissima tematica del lavoro. E allora noi siamo pronti per affrontare il tema della seconda parte di Cuore Denari. Allora, come anticipato, nella seconda parte della puntata affrontiamo il tema della contraccezione. Perché? Perché la contraccezione d'emergenza diventa un medicinale da banco. Dopo la pillola dei 5 giorni, che è stata liberalizzata lo scorso maggio, ora è il turno di quella del giorno dopo. L'AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha dato il via libera per acquistarle. Non ci sarà bisogno né della prescrizione medica né del test di gravidanza, ma solo della maggiore età. Ne siete a conoscenza? E cosa ne pensate? Siete favorevoli o avanzate dei dubbi? Considerate questa facilità d'accesso un passo avanti, un'opportunità o un potenziale rischio? Il tema ci offre anche lo spunto per riflettere sul ruolo dei genitori nell'educazione sessuale dei figli. Per questo vi chiediamo se parlate di contraccezione con i vostri figli, se vi sentite pronti a fare domande o a rispondere alle loro domande. Soprattutto, come li preparate e aiutate a vivere la sessualità in modo responsabile e consapevole. 800 24 00 24. Intanto benvenuta e bentornata la professoressa Irene Cetin, professore ordinario dell'Università di Milano e direttore del Dipartimento Materno-Infantile all'Ospedale Sacco di Milano. Buongiorno, prof. Buongiorno. Intanto, professoressa Cettini, iniziamo dal tema contraccezione. È un tema delicato su cui pesano tabù, luoghi comuni, leggende metropolitane, molta disinformazione. Parleremo oggi di contraccezione d'emergenza nella prima parte, ma anche di contraccettivi. E le do subito due dati. Secondo un'indagine della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, la SIGO, riferita al 2013, solo il 16,2% delle donne italiane usa la pillola anticoncezionale. I dati degli altri paesi sono molto differenti, il 58,9% del Portogallo, il 52,6% della Germania, oltre il 40% della Francia, ma aggiungo anche un altro dato, il 42% delle under 25 non utilizza nessun metodo contraccettivo durante il primo rapporto sessuale. Allora, i dati la dicono lunga sulla necessità di fare informazioni, di fare chiarezza. Quindi, professoressa Cettin, iniziamo da qui e intanto grazie per la sua disponibilità a darci una mano. Sì, diciamo che è noto il dato che in Italia la contraccezione, soprattutto quella ormonale, è molto meno diffusa che non in altri paesi d'Europa. In Italia le ragazze fanno un po' fatica a usarla, ci sono insomma diverse paure e soprattutto, per fortuna però, adesso si è un po' diffuso di più l'uso del preservativo, che soprattutto nell'età molto giovani è ovviamente protettivo anche nei confronti delle malattie che si trasmettono sessualmente, però sicuramente sulla pillola siamo tra i paesi che la usano di meno. 800 24 00 24 per tutte le vostre domande di donna, parliamo naturalmente anche di coppia, ma anche per le domande, i tabù, le difficoltà che avete nel parlare di sessualità con i vostri ragazzi. E quindi partirei proprio dalle pillole del giorno dopo, è la notizia che ci ha dato lo spunto per la puntata. Oggi sono disponibili in farmacia, come anticipato, senza bisogno di ricetta medica per tutte le donne maggiorenni. Parlo al plurale perché oltre alla pillola del giorno dopo c'è anche quella dei 5 giorni, che è stata una delle due, la prima a essere liberalizzata. Ma professoressa Cetin, che differenze ci sono tra questi due farmaci e come funzionano? Qual è il loro meccanismo d'azione? I due farmaci agiscono entrambi sulla ovulazione, nel senso che naturalmente affinché avvenga un concepimento ci deve essere la disponibilità dell'ovulo, e l'ovulo viene rilasciato a metà circa del ciclo mestruale, cioè circa in 14ª giornata, ma naturalmente questo non è sempre uguale in tutti i cicli e non è uguale nelle diverse donne, e per essere rilasciato prima ci deve essere la produzione di un ormone, che è l'ormone luteinizzante. L'ulipristal, che è il farmaco che è contenuto nella cosiddetta pillola dei 5 giorni, inibisce la produzione proprio di questo ormone, quindi inibisce sostanzialmente l'ovulazione. Il meccanismo d'azione invece del levonorgestrel, che è la pillola che agisce per 72 ore dopo il rapporto, è sempre di inibire l'ovulazione, ma in un modo diverso, cioè inibisce proprio sostanzialmente la disponibilità dell'ovulo, anche se l'ovulazione è avvenuta, l'ovulo non è fecondabile. Hanno quindi meccanismi d'azione diversi, giustificano perché uno è attivo in realtà per 5 giorni successivamente al rapporto, mentre l'altro agisce per 72 ore, cioè per 3 giorni. Però tenete conto che è molto importante sempre ricordare che l'efficacia è tanto maggiore quanto prima viene assunto il farmaco, perché cioè, è vero che l'efficacia ci può essere fino a 5 giorni, però progressivamente l'efficacia diminuisce, cioè non è una garanzia del 100%. Certo. Quindi il tempo di assunzione è determinante per l'efficacia. Professoressa sì. Cettin, quindi possiamo dire che queste pillole inibiscono l'ovulazione, quindi non hanno nulla a che vedere con la pillola RU486? Assolutamente no. Ecco, cioè, proviamo 486, sì, perché sì, sono già arrivati dei messaggi. Vogliamo allora chiarire esattamente che cosa si intende per contraccezione d'emergenza, che è un terzo tipo di contraccezione, perché se pensiamo la contraccezione è di tre tipi: prima, durante e dopo, no? Possiamo sì. fare questi. Questa è la contraccezione d'emergenza, è assolutamente differente da quella della pillola RU486. Perché, professore Sacettin, così rispondiamo anche alle domande dei nostri ascoltatori che hanno paragonato la contraccezione d'emergenza delle pillole abortive. Non sono farmaci abortivi, sono farmaci no, che ritardano l'ovulazione. Questo al di là sì. di ogni impostazione, di ogni credo, di ogni cosa. Questo è il meccanismo d'azione. Poi uno può decidere se prenderle o non prenderle, se avere dei. Questo è tutto un altro paio di maniche, come si dice. Noi oggi cerchiamo di capire di che farmaci si tratta, quali sono le l'efficacia, le garanzie, se ci sono delle controindicazioni, che cosa coprono e perché. Un'occasione anche per parlare poi di contraccezione, quindi di pillola, di contraccezione ormonale, anche se non sono solamente ormonali i contraccettivi oggi a disposizione. E anche invitare gli ascoltatori, i genitori all'ascolto a fare una sorta di riflessione sul ruolo che i genitori hanno nell'educazione sessuale dei loro figli. E qui, che potrebbe no, evitare, professoressa Cettin, sicuramente il ricorso sia alla contraccezione d'emergenza che quanto mai alla pillola abortiva. Ma detto questo, professoressa Cettin, non so se ho messo tutti i tasselli a posto. Allora, no, ribadisco anch'io assolutamente che quando noi usiamo una contraccezione d'emergenza impediamo il concepimento, quindi non è una pillola che interrompe una gravidanza che è già iniziata, cioè impediamo proprio che ci sia un ovulo che può essere fecondato nel caso ci sia stato un rapporto fecondante. Teniamo conto che questo può essere anche ovviamente fondamentale per esempio in situazioni di violenza sessuale, dove che per fortuna non sono frequenti, ma dove chiaramente ci troviamo in situazioni dove dobbiamo intervenire per prevenire sicuramente una gravidanza, ma la preveniamo in questo modo prima del test di gravidanza positivo. Quindi ci sono situazioni, oppure per esempio una ragazza che può usare il preservativo, ma magari il preservativo scopre che si è rotto. Queste sono classiche situazioni dove c'era anche tutta la buona volontà di non avere una gravidanza, ma nelle ore successive si può agire impedendo comunque, ripeto, il concepimento. La pillola RU486, cioè che poi non è un'unica pillola, ma è tutto un procedimento che si deve svolgere peraltro in Italia in ospedale, quindi fatto assolutamente in modo tutelato, è un modo per interrompere una gravidanza nelle primissime settimane, ma comunque una gravidanza per la quale c'è già stato un test di gravidanza positivo, quindi sostanzialmente un'azione completamente differente. Assolutamente, proprio completamente diverso, cioè parliamo proprio di cose completamente diverse. Dopodiché però è ovvio che l'ideale, cioè la situazione migliore è quella della pillola assunta continuativamente, ma questo per un discorso più medico e anche psicologico, non perché dal punto di vista del meccanismo stiamo agendo in modi radicalmente diversi, cioè semplicemente che il meccanismo d'azione è un meccanismo diverso e soprattutto che l'efficacia non è garantita al 100%. Allora, intanto vi leggo il messaggio di Stefano, su cui sì, vi invito magari a confrontarvi. Stefano ci scrive: non credo non sia educativo sulla responsabilità del rapporto uomo e donna. Tutti i metodi contraccettivi che si sviluppano fanno riferimento alla donna, scaricando su di lei responsabilità e rischi. Bella, professoressa Cetin, che cosa ne pensa? No, infatti io ho citato il preservativo perché io sono convinta che il preservativo sia un ottimo metodo, un metodo che è un pochino, diciamo, metodo cosiddetto di barriera. Anni fa si usava molto anche il diaframma, adesso è quasi diventato sconosciuto. Questi due metodi sono due metodi entrambi che coinvolgono molto di più la coppia, perché sono metodi in cui devono essere coinvolti entrambi i partner. Sono metodi che, allora, per quanto riguarda il preservativo, chiaramente il preservativo ha anche veramente il grandissimo vantaggio nell'età, soprattutto in cui i rapporti sono non così stabili, prevenire le infezioni sessualmente trasmesse, che sono ovviamente non soltanto tra l'altro l'HIV, ma anche il papillomavirus, l'herpes, altre, anche adesso tra l'altro si vede sempre di più anche purtroppo anche la sifilide ritornare, quindi metodi da, cioè il preservativo è un metodo molto importante che non ci dobbiamo assolutamente dimenticare. Allora, abbiamo cercato di coinvolgere anche i genitori, ma infatti è arrivato subito un messaggio di un ascoltatore che ci scrive: come genitori ne parliamo, ci siamo attivati attraverso il consultorio per avere il metodo contraccettivo più corretto per nostra figlia, nessun tabù, ma corretta informazione. Purtroppo, ci scrive, tutto viene lasciato all'iniziativa dei singoli, nella buona scuola parlare di educazione sessuale è vietato. Vi risulta? 800 24 00 24. Adesso andiamo a sentire i mercati. Andiamo a sentire i mercati. Oggi, insomma, non abbiamo notizie particolarmente brillanti, però, insomma, cercheremo di edulcorare la pillola, visto che è quella di cui stiamo parlando questa mattina. A parte gli scherzi, a tra poco, mercati. Cuore e denari. Allora, siamo di nuovo insieme a Cuore Denari, seconda parte della trasmissione. Stiamo parlando di contraccezione. Abbiamo aperto parlando di contraccezione d'emergenza, perché la notizia che ha dato lo spunto a questa puntata è il fatto che non ci sia più obbligo di ricetta per le maggiorenni né per la pillola dei 5 giorni, questo che era stata già liberalizzata l'anno scorso a maggio, né per quella del giorno dopo. Parlare di contraccezione e anche di contraccezione d'emergenza, noi genitori, diciamolo subito, scatena una grande ansia. Tutta la sessualità e la vita sessuale dei nostri figli giovanissimi spaventano gli adulti, perché sappiamo quanti e quali sono i rischi che corrono, li vediamo muoversi in un mondo che accelera tutto, porta sempre prima nella vita dei giovanissimi esperienze per le quali possono non essere pronti, ed ecco allora che scatta la preoccupazione, che a volte ci toglie proprio la possibilità e così la capacità di parlare con i nostri figli. Alberto Pellai ha dedicato a questo argomento un libro per noi genitori intitolato Tutto troppo presto, l'educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di internet, ma ne avevamo parlato, e ne ha scritto anche un altro per le ragazze, Girl Revolution, Diventa ciò che sei, editi da De Agostini. Ci raggiungerà nel corso della trasmissione, quindi 800 24 00 24 per affrontare insieme anche il tema dalla prospettiva educativa. In linea con noi abbiamo però la professoressa Irene Cetin, ordinario dell'Università di Milano e direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'Ospedale Sacco di Milano, pronta a rispondere a tutte le vostre domande in tema di contraccezione all'800 24 00 24. Ricapitolando, professoressa Cetin, la contraccezione di emergenza costituisce indubbiamente un'ultima possibilità di ridurre il rischio di una gravidanza indesiderata e di scongiurare l'eventuale ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza. Resta comunque imprescindibile il ruolo di una prevenzione contraccettiva stabile. Possiamo riassumere così, con questo messaggio, la prima parte della nostra chiacchierata? Sì, concordo assolutamente, perché comunque, come ho appunto detto anche prima, la contraccezione d'emergenza non ha comunque un'efficacia pari al 100% e quindi resta comunque un piccolo rischio che aumenta progressivamente col tempo che passa dal rapporto sessuale. Ecco, e ricordiamo che la contraccezione d'emergenza è efficace solo per il rapporto che ha indotto alla sua assunzione. Per i rapporti sessuali successivi occorre ricorrere a un altro contraccettivo nel caso. Sì, esatto. Quindi cioè, non è una protezione, non sostituisce. No, assolutamente. Perché dai messaggi che arrivano ci rendiamo conto con Deborah che il tema è abbastanza, c'è molta disinformazione su questo tema, poi magari tanti naturalmente dei giudizi personali. Fino anche ad un pizzico di superficialità in qualche commento, devo dire. Allora, sì. 800 24 00 24 per parlarne con noi, ad esempio un ascoltatore ci scrive, ma esiste la pillola al maschile? Professoressa Cettini, non ancora, ci stanno lavorando. Certo. Ma non c'è ancora perché probabilmente insomma l'effetto della pillola sul maschio è anche un effetto che da cui è difficile scindere l'effetto antiandrogeno e quindi comunque un effetto che è anche sul poi il desiderio sessuale. E per cui è ancora una pillola che non esiste. Però ci sono un'ampia offerta, direi per le donne che vogliono rivolgersi a una vogliono effettuare una contraccezione stabile, anche se ci sono ancora molti timori nei confronti della contraccezione, non solo da parte delle giovani donne, ma anche da parte di quelle più mature. E sicuramente tra le varie cause di queste resistenze che vedono scivolare proprio il nostro paese nelle posizioni finali delle classifiche sull'uso dei contraccettivi, c'è sicuramente la paura degli ormoni, anche se i contraccettivi non sono solo ormonali. Ma intanto che voi prenotate i vostri interventi, andiamo a sentire Lisa, ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Lisa, benvenuta. Buongiorno, grazie. Io ho chiamato sostanzialmente soprattutto per riferire quella che è la mia esperienza. Io sono una donna di quasi 47 anni e ho due bambine avute in tardissima età. Ma in corso di tutta la mia vita non ho mai potuto usare la pillola anticoncezionale perché fin dal primo utilizzo mi si è scatenata un'emicrania cronica e pur provandoci e riprovandoci è sempre stata peggiorativa la cosa. Non posso usare neanche il preservativo perché mi induce lacerazioni e quindi diventa poi di fatto un altro tipo di problema, ma soprattutto alla soglia dei 40 anni mi sono vista rifiutare la pillola del giorno dopo, quindi la famigerata RU, da più di un ginecologo compreso un pronto soccorso. Allora, la pillola del giorno dopo non è la RU? Esatto. Io mi sto riferendo ovviamente a 7 anni fa, per cui le cose erano differenti. Professoressa Cettini. No, ma neanche 7 anni fa la RU era la pillola del giorno dopo. La pillola del giorno dopo è sempre stata anche in passato il levonorgestrel, oppure molti anni fa erano dei dosaggi un po' alti anche di estroprogestinici combinati. Quindi l'unico motivo per cui gliela possono aver rifiutata era che chi l'ha vista ha ipotizzato un rischio trombotico visto che soffriva di emicrania, però in realtà la pillola del giorno dopo in uso adesso, ma anche 7 anni fa in realtà, cioè il levonorgestrel prima e anche 7 anni fa e adesso l'ulipristal, non aumentano il rischio, non hanno rischio trombotico perché non contengono estrogeni. Contengono solo il progestinico nel levonorgestrel e addirittura nell'ulipristal non c'è nemmeno il progestinico, ma c'è una molecola che agisce sul recettore del progesterone, quindi non hanno assolutamente rischi trombotici. Professore, quindi avrebbero potuto dargliela. Attualmente sì. Il consiglio mio molto immediato è che può tranquillamente invece usare la spirale, che per lei è il metodo ideale. Ecco, la telefonata di Lisa ci dimostra che a fronte di un'ampia offerta di contraccettivi, la scelta contraccettiva deve essere proprio fatta su misura della donna, professoressa Cettin. Quindi proprio come sì, con un sì, abito. Come ormai in tutti i campi si deve pensare a una personalizzazione, e questo peraltro noi medici lo facciamo, i ginecologi siamo abituati a farlo. Diciamo che c'è molto timore adesso sulla pillola, un timore a volte veramente infondato, anche a volte da parte di medici, su questo discorso del rischio trombotico. Allora, ci sono, prima di tutto, sulla pillola del giorno dopo, ripeto, non c'è assolutamente un aumento del rischio trombotico, ma anche tra i preparati invece dei contraccettivi ormonali, la pillola tradizionale, ci sono pillole che hanno decisamente un rischio inferiore anche da questo punto di vista, e ci sono sostanzialmente pochissimi motivi per cui la pillola non può essere prescritta. Sì, l'emicrania capisco che è uno di questi motivi, ma non tanto per un rischio per la paziente di salute, quanto perché diventa chiaramente un effetto collaterale che è fastidioso, e ci sono alcune persone che non tollerano bene la pillola, e in questi casi chiaramente bisogna ragionare su altri metodi, sicuramente. Professoressa Centin, do la linea alle informazioni sul traffico. Intanto le chiedo di pensare alle bufale sulla pillola che, nonostante le smentite, continuano a circolare indisturbate. Così facciamo anche in questo senso un po' di informazione. Andiamo, e tra poco ci raggiungerà anche Alberto Pellai per confrontarsi con i dubbi e le paure dei genitori alle prese con ragazzi, con adolescenti che si muovono e muovono i primi passi nel territorio della sessualità. Tra poco. Cuore e denari. Contraccezione, sì, no e come? Ne stiamo parlando con la professoressa Irene Cettin, ordinaria all'Università di Milano e direttore del Dipartimento Materno-Infantile all'Ospedale Sacco di Milano. Professoressa Cettin, le bufale sulla pillola che, nonostante le smentite, continuano a circolare indisturbate? Ma sì, alcune sono quelle classiche che molte ragazze temono, cioè che faccia aumentare di peso, che faccia venire la cellulite, e queste sono decisamente smentite da tutti i dati, non c'è questo rischio. Poi ce ne sono altre su rischi più gravi, per esempio il rischio di tumori, sì, ma anche questo assolutamente non è vero. Addirittura è stato dimostrato che chi assume per molti anni la pillola riduce il rischio di sviluppare tumore dell'ovaio. E l'ultima cosa che mi viene in mente è che molte persone temono che quando la sospenderanno potrebbero avere gravidanze gemellari. Anche questo assolutamente non è vero. Cioè, la pillola inibisce l'ovulazione nel periodo in cui la si prende, e l'effetto termina nel momento in cui la si sospende, cioè non c'è un effetto poi cumulativo nel tempo del fatto di aver assunto la pillola nel modo più assoluto. Alcune ascoltatrici scrivono che il loro ginecologo le ha suggerito di sospendere la pillola per un po' e poi di riprenderla. Si sospende, può essere assunta anche per periodi molto lunghi, anni, 10-12 anni. Non c'è un motivo per sospenderla, sicuramente non c'è nessun motivo valido per sospenderla frequentemente, per esempio una volta all'anno o per un mese, per esempio, questo assolutamente non ha senso. Dopodiché io per esempio non amo mai molto prescrivere la pillola immediatamente a una ragazza molto giovane che ha appena iniziato la sua, cioè che ha appena avuto le mestruazioni da poco, ecco, preferisco sempre aspettare che abbia avuto almeno le mestruazioni per un anno o due, in modo che si siano un pochino regolarizzate, perché diciamo che in una ragazza molto giovane assumere la pillola immediatamente per un periodo molto lungo potrebbe, quindi almeno un anno o due. Sì, allora, esatto. Abbiamo intanto, saluto Alberto Pellai che è in linea con noi, autore di un libro che è proprio perfetto per il tema che stiamo affrontando oggi. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Tutto troppo presto, l'educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di internet, ma ne hai scritto anche uno per le ragazze, Girl Revolution, diventa ciò che sei, tutte e due edite da De Agostini, e quindi parleremo anche di, darei anche un messaggio ai genitori. D'altronde il successo di questi libri raccontano proprio il bisogno dei genitori di avere una guida. Andiamo da Carla, da Ravenna, che ci stava aspettando da parecchi minuti. Buongiorno Carla. Buongiorno. Innanzitutto volevo ringraziare la professoressa perché mi ha dato la conferma che i miei insegnamenti, io sono una ginecologa, i miei insegnamenti universitari sono ancora validi. Da nessuna parte abbiamo mai trovato scritto che la pillola fa ingrassare, fa venire il tumore o cose di questo genere, e quindi non capisco quotidianamente da dove vengano queste informazioni. Ma volevo chiedere alla dottoressa, proprio sul tema dell'informazione, che cosa ne pensa del libero accesso alla pillola del giorno dopo a queste ragazze che non solo non conoscono niente del proprio corpo, non conoscono niente della loro fisiologia, non conoscono nulla, sembra neanche, di come evitare una gravidanza. Quindi dov'è che sbagliamo? Ecco, una domanda, Carla, che permetta di far interagire entrambe i nostri ospiti, la professoressa Cettin e il professor Alberto Pellai, perché noi lo chiamiamo Alberto, ma anche lui è un prof. Professoressa Cettin. Ma sì, diciamo che io rispondo più dal punto di vista medico, certo, perché voglio dire, non voglio entrare tanto nel merito, lascio poi appunto proseguire voi sull'altro merito, anche se ovviamente è la mia opinione. Per quanto riguarda la parte medica, non c'è, diciamo, un motivo per cui, diciamo, che già il fatto di dover essere maggiorenni è già un po' una forzatura, perché di fatto non c'è nessun rischio nell'assumere questo tipo di contraccezione, quindi, cioè, l'unico rischio è che non sia efficace, quindi la cosa importante è che poi uno, se le mestruazioni comunque non arrivano, faccia un test di gravidanza, ma non ci sono altri rischi. Quindi se poi invece una donna, una ragazza va in un pronto soccorso e trova, magari come succedeva prima, il medico obiettore che non le prescriveva la pillola del giorno dopo, e con il rischio quindi di avere però una gravidanza indesiderata, francamente lo trovo veramente un rischio molto più alto, ecco, per cui il mio parere medico è che, non essendoci un rischio, penso che debba essere prescritta in modo, cioè debba essere somministrata semplicemente. Andiamo ad Alberto Pellai. Alberto. Ma credo che l'osservazione ci faccia pensare, come genitori, le nostre figlie crescono effettivamente in un mondo, da una parte, che le sollecita tantissimo a fare appunto tutto troppo presto, a entrare nella sessualità agita, spesso senza aver poi conquistato la dimensione della responsabilità, della vera sintonizzazione con se stesse, con il proprio partner. Cioè, fondamentalmente sono fortemente spinte a fare sesso invece che a fare l'amore. Direi, tra l'altro, alle mamme in questo momento all'ascolto, che io sono colpito, no? C'è una saga letteraria che è quella di Aster, che è letta da ragazzine di 12, 13, 14 anni, racconta una relazione veramente malsana tra una ragazza molto giovane, un bello e dannato, parecchio instabile. In questo momento è venduto a centinaia di migliaia di copie ed è davvero intriso di una sessualità che poi non è una sessualità adeguata per l'età, ecco, la zona di sviluppo delle nostre figlie. Per cui direi, questo è un esempio concreto di come arrivino tantissimi messaggi alle nostre figlie che le spingono verso una sessualità agita, e allo stesso tempo gli adulti di riferimento. La scuola non ha una legge per l'educazione sessuale, in moltissime scuole non viene fatto niente, i genitori spesso stanno in silenzio. Sì, forse per timore, no? Magari non siamo capaci di dire le parole giuste, poi tutto questo, la contraccezione ci mette ansia, quando soprattutto la leghiamo, no? Ai nostri figli. E certo, dobbiamo rompere ogni indugio, perché... Esatto. Alberto, tra l'altro, tu hai inserito nel tuo libro, Girl Revolution, Diventa ciò che sei, un test che è proprio rivolto alle ragazze, intitolato Fare l'amore non è un gioco. Ci hai dato l'opportunità di pubblicarlo sul sito del nostro, la pagina del nostro programma, e quindi gli ascoltatori possono scaricarlo da lì, oppure in modo che possano in qualche modo farlo consegnare anche questo test alla figlia in 30 secondi, perché potrebbe essere una buona occasione per sbloccare la situazione. Alberto, abbiamo 20 secondi. Perché aiuta a parlare con le ragazze del fatto che fare l'amore non è fare semplicemente il sesso, e ci vuole molta responsabilità. Prima di farlo bisogna pensarci. Allora, Fare l'amore non è un gioco, il test per le vostre ragazze lo trovate sulla pagina di Cuore Denari. Grazie alla professoressa Cettin e ad Alberto Pellai. Noi torniamo domani, noi come torniamo sempre. Noi torniamo domani, tra l'altro parleremo di cose interessanti con il dottor Speciani, e poi naturalmente un altro tema di grande attualità, lo spreco alimentare. C'è in discussione una legge proprio in Italia, per cui a domani.